Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, questo è il pomeriggio di Radio 24 ed è Italia in controluce. Seconda puntata dell'inchiesta di Italia in controluce sul riciclaggio del denaro sporco. La Lombardia è naturalmente una tappa obbligata. Il reportage di Francesco Maesano. Porteremo in Consiglio Comunale una proposta di Commissione Antimafia che non sia una vetrina ma che sia uno strumento efficace per arginare i tentativi di infiltrazione della criminalità mafiosa. In un paese a crescita zero, un affare da 60 miliardi come Expo 2015 si fa notare. Ad accorgersene per prima è la criminalità organizzata, alla costante ricerca di nuove e più grandi lavatrici dove pulire il denaro. Lo sa il sindaco Pisapia, che come abbiamo sentito istituirà una commissione antimafia, a Milano, 1246 chilometri a nord di Platì. Lo sanno soprattutto gli imprenditori le cui aziende stanno rimanendo a secco di liquidità a causa della crisi e che sono assediate dalla concorrenza di 'ndrangheta, mafia e camorra. I clan sono in grado, anzi ne hanno da tempo scoperto il vantaggio, di mobilitare i capitali liquidi accumulati con le attività illegali per offrirlo fresco, immediato nelle disponibilità delle imprese. Ma non solo. Offrono una serie di servizi collaterali dei quali ci ha tracciato un campionario il procuratore della Repubblica Roberto Scarpinato. C'è una quota sempre più consistente di imprenditoria che chiede alla mafia domande e servizi che consentono di ridurre costi di produzione e di incrementare i profitti. Ad esempio, in una fase di crisi di liquidità, le mafie offrono capitali liquidi senza neanche chiedere quote di partecipazione maggioritaria. Inoltre offrono possibilità di realizzare delle opere edili con uno sconto del 30-40% sui costi di mercato, oppure garantiscono lo smaltimento di rifiuti solidi con abbattimento dei costi del 50%, oppure offrono un servizio molto richiesto a tutta imprenditoria che vive anche di evasione fiscale, e cioè la fornitura di sovrafatturazione e fatturazione false. Le aziende che ancora resistono all'infiltrazione criminale sono sempre più vulnerabili, altre hanno chiuso da tempo. Abbiamo raccolto la testimonianza di un imprenditore lombardo, Claudio De Albertis, che è anche presidente dell'Asso Impredil, l'associazione regionale delle imprese edili. Solo nell'ultimo anno abbiamo avuto qui, tra Milano, Monza e Lodi, 1150 aziende che sono morte, quindi i segnali sono oltremodo negativi. Uno degli aspetti più critici è legato agli aspetti finanziari, dovuto in parte alla stretta creditizia. Le banche oggi, soprattutto per quello che riguarda lo sviluppo immobiliare, sono molto reticenti all'affidamento verso le aziende, i parametri sono diventati molto più selettivi e quindi rende molto difficile operare. Dall'altra parte ci mette in conto che per di più c'è un problema gravissimo delle stazioni appaltanti, parlo di quelle pubbliche, che oramai non rispettano i termini di pagamento previsti dalla legge o previsti contrattualmente, ma dilatano questi termini. Sotto questo profilo il discorso quindi finanziario per le imprese è un discorso pesantissimo. Quindi noi abbiamo sollevato pesantemente questo tema, perché i riflessi possono essere tanti, la morte delle aziende, ma anche le aziende, gli imprenditori, perché poi le nostre aziende sono spesso molto piccole, con una patrimonializzazione abbastanza scarsa, poi l'imprenditore potrebbe anche a questo punto inseguire le sirene del denaro facile, e si sa che il denaro facile spesso è nelle mani di gente non certo virtuosa, ma piuttosto malavitosa. Io ho due sensazioni forti dentro di me. Una è quella, da una parte, di pessimismo che leggo negli occhi dei nostri associati, che vedo negli imprenditori. Improvvisamente, da dopo l'estate, non è, sapete, questi fenomeni partono improvvisamente, non è che partono, si crescono, crescono, crescono e poi arriva il momento in cui c'è una rottura. è dopo l'estate che è avvenuta la rottura di cui ha parlato il 28 settembre Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Dopo un'estate di passione per i rendimenti dei titoli di Stato italiani, le imprese, per poter accedere al credito, si sono ritrovate a dover accettare tassi che possono raggiungere anche il 13%. A fermarsi è stato il cosiddetto mercato interbancario. Gli istituti di credito non si fidano più l'uno dell'altro e faticano a prestarsi il denaro tra di loro. Questo aumenta il costo del bene che propongono, il denaro appunto. Le banche quindi, nell'incertezza, tendono a tenersi stretti i clienti più affidabili, chiudendo il rubinetto per quelle aziende con un rischio di credito più elevato. D'altronde, il 26 settembre, era stato Gabriele Piccini, country manager per l'Italia di Unicredit, a ribadire un concetto semplice per il quale, se i soldi sono pochi, è il sistema a dover scegliere a chi dare e a chi no. Ne abbiamo parlato con Franco Ceruti, presidente della Commissione Lombardia dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Diciamo che il periodo 2011 è fatto da un periodo che va fino a giugno, primo semestre, giugno-luglio, e dagli accadimenti successivi. Allora, che a me risulti nel primo semestre e anche a luglio, al di là di una valutazione dove il sistema bancario e le banche hanno libera valutazione delle aziende, quindi la valutazione è sui dati, se dare o non dare, non c'è stata, diciamo, nessuna restrizione. Nel periodo che sta seguendo, tra luglio, agosto e adesso settembre, è abbastanza conclamata la situazione in cui viene scaricato un po' il rischio Italia, si sono alzati i tassi e manca fiducia all'interno, diciamo così, del mercato di approvvigionamento, cioè il mercato interbancario che prima o anni fa era illimitato, adesso ha effettivamente una sua limitatezza, è finito, quindi la provvista è minore, per cui non mi risulta ancora in termini effettivi, però è certo che c'è una minor disponibilità di provvista, è quella che c'è per i motivi che tutti conoscono, essendosi allargati gli spread, perché il rischio Italia è considerato un maggior rischio, il mercato di approvvigionamento ha fatto crescere il prezzo, quindi non è un utile che va alla banca, è un prezzo della materia prima che è aumentato. Proviamo a ricapitolare. A causa della crisi finanziaria le banche non si prestano più denaro tra di loro e i cordoni della borsa si stringono. Gli enti pubblici, con i bilanci sempre più ridotti all'osso, bandiscono gare d'appalto che spesso vengono pagate in ritardo. Il 28 settembre, nel corso della loro assemblea di categoria, gli imprenditori edili hanno lanciato il loro ultimatum al governo, contestando pesantemente il ministro delle infrastrutture, Altero Matteoli. Siccome tutto il provvedimento che stiamo scrivendo non prevede soldi, perché i soldi da parte del governo non ci sono, ma quello che andiamo a scrivere nel provvedimento è quello relativo alla defiscalizzazione. Le aziende colluse o direttamente partecipate dai clan sono in grado di sbaragliare la concorrenza di quelle che operano nella legalità grazie agli evidenti vantaggi finanziari che hanno rispetto a queste. Il ricorso al lavoro nero e le pratiche di assoggettamento tipiche dell'imprenditoria criminale fanno il resto. I tentativi di infiltrazione delle mafie rischiano di trovare proprio nella crisi il catalizzatore che favorisca il riciclaggio di denaro su una scala sempre più larga e diffusa, in qualche modo inscindibile dal sistema produttivo, dato che la competitività delle imprese di mafia, come ci ha confermato Scarpinato, rischia di sfociare nella vera e propria compenetrazione col tessuto imprenditoriale della regione Lombardia e del paese. L'opinione pubblica e i media focalizzano la propria attenzione sugli aspetti più appariscenti dell'infiltrazione mafiosa, come per esempio episodi di intimidazione violenta nei confronti degli imprenditori, ma secondo me non è questo l'aspetto più pericoloso, più inquietante. Quello che è più inquietante è invece un fenomeno che noi definiamo di integrazione pacifica dell'economia mafiosa e dell'economia del territorio. Naturalmente l'imprenditoria mafiosa non deve sostenere i costi della legalità, che sono pagare le tasse, versare contributi per i lavoratori, la sicurezza sul lavoro. Questo consente, insieme al fatto di rifornirsi di capitali legali, un abbattimento dei costi che le altre imprese non si possono consentire. Ora, normalmente, diciamo, quello che succede è che quando c'è una forte riduzione dell'appalto poi si producono delle opere che sono scadenti. L'impresa mafiosa no, fa delle opere che non sono scadenti e la riduzione dei costi deriva esclusivamente dal fatto che abbatte i costi di produzione, il che paradossalmente crea un circuito, perché a volte le amministrazioni pubbliche sono contente perché fanno l'asilo nido risparmiando il 100% e in buona fede ritengono di aver fatto un servizio alla collettività. Era la seconda edizione di Italia in Controluce e vi ricordo potete iscrivervi al nostro gruppo su Facebook Italia in Controluce. Abbiamo anche la pagina che continua a salire di numero. Twitter, siamo rintracciabili via mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con la pillola di Italia in Controluce.